Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'uso eccessivo del cellulare provoca tumori, stabilisce il tribunale di Ivrea. INAIL condannata a risarcire un lavoratore che ha usato il telefono 3 ore al giorno per 15 anni. Il Senato, con il voto segreto, accetta le dimissioni di Augusto Minzolini. Nel 2015 era stato condannato a 2 anni e l'Aula, un mese fa, aveva negato la decadenza. Il Vio Testamento riprende l'esame del testo alla Camera. Dubbi sulla possibilità di obiezione di coscienza da parte dei medici. Il paziente potrà dire no alle cure. In Gran Bretagna i sondaggi danno ai conservatori al doppio dei consensi contro il Labour. In Francia Macron avrebbe 3 punti di vantaggio sulla Le Pen. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, dalla quale, come ormai sapete, andiamo anche in diretta video. In apertura la sentenza del Tribunale di Ivrea, della quale avete sentito anche dei titoli. Ci colleghiamo con Filomena Greco del Sole 24 Ore da Torino. Filomena, buongiorno, che cosa dice il Tribunale di Ivrea dunque? Sì, buongiorno Simone. Questa sentenza del Tribunale di Ivrea promette davvero di far discutere in un primo momento, poi di cambiare probabilmente l'approccio di imprese e consumatori verso l'uso dei cellulari. Ricapitoliamo però velocemente la questione. Il giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea, Luca Fadda, ha riconosciuto in una sentenza in primo grado la connessione tra un tumore, sebbene benigno ma invalidante, contratto dall'uomo che ha fatto causa, e l'uso scorretto del cellulare. Per la prima volta la sentenza già in primo grado riconosce un nesso fra l'uso del cellulare e lo sviluppo di un tumore del cervello, hanno naturalmente puntualmente sottolineato gli avvocati Ambrosio e Bertone che hanno seguito la causa, che hanno seguito la vicenda. La prima conseguenza pratica della sentenza è il fatto che l'INAIL corrisponda una rendita vitalizia da malattia professionale a quest'uomo, che è un dipendente della Telecom a cui è stato diagnosticato appunto questo tumore, proprio per l'uso che aveva fatto del suo cellulare per 15 anni senza alcuna protezione per circa 3 ore al giorno. Speriamo che la sentenza spinga ad una campagna di sensibilizzazione che in Italia non c'è ancora, questo hanno detto i legali impegnati da tempo proprio su questo fronte, sulla necessità di fare informazione. Questa patologia diagnosticata si chiama neurinoma, la questione in realtà del rapporto fra le onde elettromagnetiche emesse dai dispositivi cellulari e l'insorgere di eventuali patologie, in questo caso cancerogene, non è naturalmente un tema nuovo nella letteratura medica. Nel 2011 per esempio l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione aveva già lanciato un allarme sanitario. Quello che però è nuovo è il fatto che ci sia una sentenza di un tribunale del lavoro che già in primo grado riconosca in maniera molto chiara questo collegamento e dunque dia un riconoscimento al lavoratore colpito da una patologia indotta dall'uso, ripetiamo, non corretto del cellulare. E ti ringrazio, grazie a Filomena Greco da Torino per questo aggiornamento sulla sentenza di Ivrea. Siamo sulle tracce di uno dei due avvocati dell'uomo, vedremo se riusciremo a rintracciarlo nel corso della trasmissione. Passiamo all'estero, ma parlando anche di vicende italiane, perché siamo alla vicenda di Gabriele Del Grande, sentiamo. Gabriele Del Grande sta bene. Per quanto possa stare bene, una persona trattenuta da 11 giorni in un centro di identificazione ed espulsione in Turchia. Rassicurazioni sul suo stato di salute sono arrivate alla delegazione di Articolo 1 MDP in queste ore ad Ankara dall'ambasciata italiana. Il documentarista e giornalista italiano era stato fermato dalle autorità turche 11 giorni fa, mentre stava facendo delle interviste fra Turchia e Siria. Gabriele voleva incontrare siriani fuggiti in Turchia, ha detto la compagna dell'uomo che è riuscita a parlare con lui l'altro ieri. L'uomo è stato portato prima nel centro di detenzione di Hatay, poi in quello di Mugla e non ha potuto avere contatti con l'esterno, né visite consolari né del suo legale. Un trattamento che ha fatto salire ulteriormente la tensione tra Roma e Ankara. Le autorità locali, secondo fonti turche, dovrebbero autorizzare la visita consolare domani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo in Venezuela, dove proseguono le proteste contro Maduro, 3 vittime nella notte. Sono almeno 3 i morti e decine gli arrestati nel corso delle manifestazioni che anche ieri hanno infiammato il Venezuela, che ormai da 2 anni si dibatte in una gravissima crisi politica ed economica, nonostante le enormi ricchezze petrolifere del paese. Ieri 2 manifestanti sono morti per colpi di arma da fuoco sparati, a detta dei loro compagni, da appartenenti ai cosiddetti collettivi, gruppi di civili armati dal governo. La terza vittima è invece un membro della Guardia Nazionale, ucciso dai manifestanti, accusa l'esecutivo. L'opposizione comunque non demorde, vuole le dimissioni anticipate del presidente Maduro e per oggi ha convocato nuove manifestazioni, mentre il sempre più isolato, ma anche sempre più arroccato presidente, ha rafforzato la presenza militare e di polizia nelle strade, annunciando di essere ormai sul punto di smantellare il colpo di Stato fomentato, dice, dagli Stati Uniti. Un'accusa che Washington respinge, dicendosi piuttosto preoccupata dalla repressione sull'opposizione. In 3 settimane, 8 persone sono state uccise nei cortei e si stima che gli arrestati siano oltre 500. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E veniamo alla politica europea. I conservatori, secondo un sondaggio di YouGov, parliamo della Gran Bretagna, hanno un vantaggio di 24 punti sul Labour, sostanzialmente li doppiano. Il primo sondaggio indica i Tories al 48% dei consensi, seguiti appunto dai laboristi al 24%, i Lib Dem al 12% e lo UKIP al 7%. Politica europea che però si concentra naturalmente anche sulle elezioni in Francia. Gli ascoltatori che ci seguono su Facebook nella diretta video l'hanno già visto arrivare. Abbiamo in studio con noi Attilio Geroni del Sole 24 Ore. Attilio, ciao, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno agli ascoltatori. Allora, gli ultimi sondaggi danno un allungo di Macron che sarebbe al 25% contro il 22% di Le Pen, gli altri due al 19%. La realtà è che sono tutti troppo vicini per capire chi veramente arriverà al ballottaggio. Sì, mi chiedevo quale fosse in francese l'equivalente di too close to call. Ancora non ho questa risposta. Però secondo me siamo nel margine di errore, anche se questo gruppo, questo duo di testa sia un po' staccato, è perché l'esperienza di Brexit e di Trump ci ha insegnato che il margine di errore nei sondaggi non è più al 3-4%, ma si allarga al 5%. Quindi sono tutti e quattro possibili vincitori del primo turno. Quindi l'incertezza è massima in questo senso. Il quadro della campagna elettorale al momento come si sta sviluppando? Ma negli ultimi giorni Marine Le Pen, ad esempio, ha battuto molto il tasto su quella che è una delle maggiori preoccupazioni dei francesi, legata ai migranti e alla sicurezza. Macron sta cercando di convincere gli indecisi, perché ad esempio nella quota degli elettori di Macron la percentuale di indecisi è maggiore rispetto a quella di Marine Le Pen. E quindi credo che la corsa, sì, forse questa volta si ridurrà ai primi due, a Macron e Le Pen, però abbiamo avuto, no, in queste ultime settimane, 2-3 settimane, questa ascesa fulminante di Mélenchon che ha un programma speculare a quello di Marine Le Pen, cioè fuori dall'euro, fuori dalla NATO a determinate condizioni. Però adesso magari sta perdendo un po' di dinamica a favore di Macron e Le Pen. Però Mélenchon comunque è un grandissimo oratore, ha avuto una presa formidabile sul pubblico e abbiamo assistito a una cosa in questi mesi. Poi tutti hanno parlato di crisi del Partito Socialista. No, il Partito Socialista non è in crisi, si è disintegrato, almeno in Francia. Non esiste più in questa fase. Allora ti ringrazio, grazie ad Attilio Geroni del Sole 24 Ore per questo punto sulle elezioni francesi, delle quali naturalmente continueremo a parlare ampiamente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Veniamo alle vicende italiane, iniziando dalla manovra che dovrebbe arrivare oggi in Parlamento, la cosiddetta manovrina. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Varato lo scorso 11 aprile, il decreto che contiene la cosiddetta manovrina dovrebbe arrivare oggi in Parlamento, probabilmente, Simone, nel pomeriggio. Il testo fino a ieri sera non risultava ancora inviato da Palazzo Chigi al Quirinale per il visto del Capo dello Stato, senza il quale il provvedimento non può essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il ritardo sarebbe dovuto, secondo fonti del Ministero dell'Economia, alla necessità di limare fino all'ultimo un articolato che, data la sua complessità, non ammetterebbe errori. Quasi 70 capitoli per una versione omnibus della manovrina, dal fisco agli enti locali, dalle misure per il terremoto a quelle per la crescita. 3 i passaggi che avrebbero richiesto più tempo per la definizione: tagli ai ministeri, trasporto pubblico locale e crescita. In bilico la maxi sanzione di 200 euro agli evasori dei biglietti dei mezzi pubblici. Dubbi anche sulla presenza nella finanziaria di primavera della norma che consente la prosecuzione della concessione del gratta e vinci. Il passaggio parlamentare, Simone, modificherà quasi certamente finalmente poi il decreto. Quanto alla manovra vera e propria dell'autunno, per il prossimo anno il ministro dell'economia Padoan ha chiarito la sua posizione: niente aumento dell'IVA nel 2018 e quindi nessuno scambio tra rialzo dell'aliquota e taglio del cuneo fiscale. Perché il taglio delle tasse sia credibile e permanente, ha detto Padoan, c'è bisogno di coperture altrettanto credibili e strutturali, ha insistito il titolare del Tesoro. È tutto, linea allo studio. E grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Ed è in arrivo l'obbligo di cedolare secca per chi affitta tramite, per chi affitta la propria casa tramite piattaforme come Airbnb. Va bene, ma non costringano noi a raccogliere le tasse, ossia fare il sostituto d'imposta, dicono dalla piattaforma. Il responsabile per l'Italia, Matteo Stefanelli, è intervenuto questa mattina 24 mattino. Ascoltiamolo. Abbiamo forti perplessità proprio sulla fattibilità del ruolo di sostituto d'imposta. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, però ci sono delle condizioni, come dire, inderogabili su cui non si può prescindere. Tipo questa, non volete fare il sostituto d'imposta? No, assolutamente no, perché è proprio incompatibile con il nostro ruolo di piattaforma. Cioè non è qualcosa di nuovo, la cedolare secca era già prevista e gli host sono già tenuti a pagare le tasse come preferiscono, abbiamo sia la cedolare secca sia altre modalità. Il punto, e qui non ci adeguiamo, è che non possiamo dall'oggi al domani raccogliere le tasse su milioni di transazioni, su centinaia di migliaia di posizioni fiscali senza essere mai stati interpellati. Fondamentalmente la tassa Airbnb, ma noi non siamo mai stati seduti al tavolo per parlarne. Restiamo sulla politica. Oggi il Senato ha votato sulle dimissioni di Augusto Minzolini. Il servizio. Con voto segreto l'aula di Palazzo Madama accoglie le dimissioni da senatore di Augusto Minzolini. I sì sono stati 142, 105 i no 4 gli astenuti. Condannato per peculato quando era direttore del TG1, lo scorso 16 marzo l'esponente di Forza Italia era stato salvato dall'aula che, anche grazie ai voti di alcuni senatori del PD, aveva detto no alla sua decadenza sulla base della legge Severino. Le mie dimissioni sono una libera scelta di coerenza, ha spiegato Minzolini, che prima del voto ha invitato l'aula ad accogliere la sua richiesta e ha ringraziato i senatori che avevano votato no alla sua decadenza. Questa non è la partita di ritorno di quel voto del 16 marzo. Se fosse così, ritirerei quella lettera, senza indugio. Quella partita, i giustizialisti di ogni credo, gli interpreti di una Costituzione a proprio piacimento, l'hanno già persa. Mi sento come l'ultimo giorno di scuola, ha poi aggiunto Minzolini dopo l'esito del voto. Niente da fare invece per Giuseppe Vacciano, l'ex grillino ora nel gruppo misto. Per la quinta volta, infatti, l'aula di Palazzo Madama ha respinto la sua richiesta di dimissioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'altra Camera invece è impegnata sul biotestamento. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì Simone, si contano i voti sul biotestamento in un provvedimento che vede maggioranze alternative a seconda degli articoli votati. Ieri due assi, uno PD Movimento 5 Stelle sul paziente che può rifiutare le cure, l'altro PD AP per l'obiezione di coscienza del medico. E ci sono già le prime posizioni per il voto finale. Il gruppo di Forza Italia della Camera voterà no, ma vista la delicatezza del tema sarà garantita la libertà di coscienza dei parlamentari. Per l'UDC il disegno di legge apre la strada all'eutanasia. È una legge che serve esclusivamente a definire che idratazione e nutrizione sono trattamenti sanitari che possono essere sospesi. Favorevoli PD e Movimento 5 Stelle, ed è ripreso l'esame nel DDL dell'Aula di Montecitorio. Il voto finale dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Ricordiamo quanto è successo ieri: nel provvedimento entrano il divieto all'accanimento terapeutico e il riconoscimento del diritto del paziente ad abbandonare la terapia, ma anche nelle cliniche private cattoliche il medico però può rifiutarsi di staccare la spina. A te Simone. E grazie dunque ad Elisabetta Fiorito. Più avanti torneremo su questo tema, sul tema del biotestamento. Lo faremo con Mario Ricci, l'uomo che esaudì la volontà di Welby aiutandolo a morire. Ne parleremo più avanti. Adesso ci occupiamo di tutt'altro argomento. In chiusura di questa prima parte di trasmissione andiamo al calcio e naturalmente alla serata di ieri della Juventus. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Beh, neri monte, neri montade, no, direi proprio no. Anzi, nemmeno porta sbarrata, direi. Porta sbarrata e nemmeno un golletto concesso agli assi del Barcellona. Una Juventus che ha giocato la partita perfetta difensivamente, che non ha rischiato mai nulla, che ha spento ogni sogno, ogni velleità, ogni pensiero al Barcellona, mettendoci anche l'idea che a Barcellona si sia chiuso il ciclo aperto da Guardiola, una squadra storica, una squadra che ha fatto la storia del calcio, come si diceva nei giorni scorsi, l'ex di Cruyff, il Milan di Van Basten, degli olandesi e di Sacchi, e questo Barcellona. Ebbene, è probabile che ieri sera si sia chiuso anche qualcosa di epocale. Definitivamente, questo ciclo del Barcellona. Sì, però, però prima di oltre a fare discorsi epocali, rimaniamo alla cronaca di una Juventus che si presenta al tavolo dei quattro grandi. Domani il sorteggio per le semifinali. Sono rimaste le due di Madrid, che sono due squadre ovviamente molto diverse, il Real e l'Atletico del Cholo Simeone. E poi questa sorpresa Monaco, che ha battuto 3-1 anche il Borussia di Dortmund, è una squadra molto giovane e fresca, è l'underdog di questo finale di Champions League, ma la Juventus adesso, in questo momento, giustamente non hanno paura di nessuno, attendono il sorteggio con fiducia. Vedremo come andrà dunque questo sorteggio e grazie a Carlo Genta per essere stato con noi. Lo ritroviamo alle 14 in tutti i convocati come sempre. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Inizieremo parlando di questo. Probabilmente dopo aver visto i fatti di cronaca delle ultime settimane, per quanto tutti molto diversi tra loro, quando passate in autostrada sotto un cavalcavia, beh, insomma, un pensierino ce lo fate. Allora andremo a Ponte di Legno, dove è successa una cosa veramente curiosa. Ne parliamo con la sindaca. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del Tribunale di Ivrea che ha fatto una sentenza per la secondo la quale l'uso eccessivo del cellulare provoca tumori. Abbiamo parlato del Senato che con il voto segreto ha accettato le dimissioni di Augusto Minzolini. Abbiamo parlato del biotestamento e ci torneremo tra un attimo. Ci siamo occupati di elezioni in Gran Bretagna e in Francia e adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. È una diretta video, mentre ci potete scrivere al 349-238-6666 via SMS e via WhatsApp. Come si diceva prima, beh, insomma, dopo l'ultimo crollo di un cavalcavia, il terzo in pochi mesi, tutti per cause diverse naturalmente, forse difetti di progettazione, un'usura eccessiva, beh, insomma, qualche preoccupazione inizia ad esserci e ormai iniziano ad arrivare segnalazioni un po' alle province, ai comuni, all'ANAS, ogni volta che qualcuno vede una microcrepa in un cavalcavia. Caso particolare, tra gli altri, quello di Ponte di Legno. Aurelia Sandrini ne è il sindaco. Buongiorno, benvenuta Sandrini. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, gira in rete in queste ore questa foto meravigliosa, per così dire, di un cavalcavia che è dalle vostre parti, là a Ponte di Legno, che viene sostenuto parzialmente da un tronco. E però questo tronco, Sandrini, ce l'ha messo l'ANAS. Allora, sì, questo tronco è stato messo da una ditta incaricata da ANAS, in quanto io ho segnalato che secondo me c'era del pericolo, perché il sottopasso mi sembrava molto ammalorato e quindi io per la verità sono quasi 3 anni che scrivo ad ANAS di intervenire su questo sottopasso ed altri 2 o 3 che sono in condizioni, non dico così brutte, ma che hanno comunque bisogno di essere ristrutturate. Di un po' di manutenzione, Un giorno arrivano questi signori di una ditta incaricata all'ANAS e quando se ne vanno, cioè, del cavalcavia c'è un tronco. Loro per la verità arrivano su una mia segnalazione di un grosso calcinaccio che è caduto dal sottopassaggio, dal sottostante passaggio, e che solo per fortuna non ha colpito una coppia di genitori con un bambino. Quindi io faccio di nuovo una segnalazione inviando delle fotografie e il giorno dopo mi ritrovo gli operai dell'ANAS che stanno lavorando e stanno mettendo questo appunto tronco d'albero come puntello. E questo mi fa pensare che la cosa sia abbastanza preoccupante, sì. Perché se mi mettono un puntello, sia pure un puntello che fa ridere, però io mi preoccupo. Un pochino sì, ci segnala un ascoltatore, fa la battuta, dice deve essere il famoso Italia sicura. Beh, sì, può darsi. Probabile. non è male, con i tronchi. Grazie Aurelia Sandrini, sindaco di Ponte di Legno, per essere stata con noi. Allora, Igor Vaclavic, Norbert Fair o comunque si chiami, veniamo alle cronache, il cosiddetto killer di Budrio, Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara. Ciao, bentornato ai nostri microfoni. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, vien da dire, si stringe il cerchio, per usare una frase fatta, però mi sembra che il cerchio non si stringa un granché. Sì, la sensazione è proprio questa. Purtroppo, ovviamente, lo spiegamento di forze è sempre notevole lì attorno all'oasi di Marmorta, però diciamo così, ci sono registrate tracce ben concrete della presenza di Igor Norbert, ma al momento purtroppo non, al di là delle segnalazioni, di lui nemmeno l'ombra, e tanto più che, come tutti quanti scrivono, domani, venerdì, il ministro Minniti, ministro dell'Interno, sarà proprio a Molinella per fare il punto con gli inquirenti e per parlare con le vittime, con i familiari delle vittime. E questo è un segnale importante che noi lo scrivevamo già una settimana fa, che questo sta diventando sempre più un affare di Stato, sì. Anche perché da quanto ci risulta ai carabinieri verranno rafforzati nel loro impegno, nel loro lavoro, anche reparti della polizia. Perché quanti giorni sono ormai, Daniele? Che... Ormai sono 12 giorni e 12 notti, li abbiamo contati oggi. 12 giorni e 12 notti e quest'uomo non si riesce a trovare. Ultima domanda che ti voglio fare, qualche traccia recente è stata trovata nelle scorse ore oppure no? Sì, purtroppo era un bluff, cioè un bluff, una pista falsa, nel senso che c'è stato questo blitz importante, proprio anche dal punto di vista visivo, come ci hanno raccontato i testimoni oculari dei carabinieri del Tuscania schierati, fucili puntati contro questa casa, perché si temeva potesse esserci qualcuno dentro. Alla fine hanno trovato tracce di sangue, ma da quanto abbiamo purato noi soltanto oggi, no ieri sera, si è trattato di una persona che aveva tentato un suicidio, sì. E quindi le tracce di sangue erano riferite a questo. Però, ripeto, le segnalazioni sono centinaia e centinaia, ma oltre questa attività, diciamo così, di accerchiamento, in questo cerchio che ci stringe, ovviamente c'è tutta questa attività di intelligence, che forse è quella più importante e meno evidente. Sì. Per cui le indagini si stanno concentrando sempre più su tutto il sottobosco, l'underground che frequentava questo Igor Norbert, e per arrivare a qualcuno che possa indicare qualcosa di importante su dove si possa trovare. Io ti ringrazio, grazie ancora Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara. Le sue cronache le trovate anche sul sito del quotidiano, così come sul quotidiano stesso ci diceva un affare di Stato. E beh, ci credo che è un affare di Stato, 12 giorni e 12 notti senza trovare un uomo in un tratto di territorio tutto sommato piuttosto piccolo rispetto alla dimensione del paese. Cambiamo decisamente argomento. Passiamo a parlare di biotestamento. Si sta lavorando alla legge sul fine vita alla Camera, si stanno progressivamente approvando gli articoli. Ieri ci sono state delle importanti modifiche rispetto a quella che era l'indicazione iniziale, tra queste possibilità per il paziente di dire no alle cure e dall'altra però controbilanciata, per così dire, dalla possibilità per il medico di fare obiezione di coscienza. Siamo in linea con Mario Riccio, che è componente della consulta di bioetica, anestesista e rianimatore dell'ospedale di Cremone. Fu l'uomo che esaudì la volontà di Welby aiutandolo a morire. Tra l'altro questa sera sarà a Milano per presentare la seconda edizione del libro di Welby, Amo la vita, voglio l'eutanasia. Allora, Riccio, innanzitutto buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, Questa questione dell'obiezione di coscienza, secondo lei, può creare problemi? Intendo questo, che quello che ci è saltato all'occhio è stata la seguente cosa. L'introduzione dell'istituto dell'obiezione di coscienza, che ha un suo fondamento di correttezza rispetto a magari dei medici che per le loro convinzioni religiose non vogliono compiere quell'atto, ha portato a delle forti distorsioni quando si è trattato dell'applicazione della legge 194, quella sull'aborto. Lei intravede un rischio che si possa generare qualcosa di simile anche con una legge di questo genere sul fine vita? Guardi, io dico subito che sono favorevole alla presenza di un'obiezione di coscienza nella vita lavorativa, nella pratica medica, però con alcune limitazioni e con alcuni chiarimenti. In questo caso, su una legge che riguarda in un certo senso il fine vita, anche sicuramente il fine vita, credo che l'impatto dovrebbe, valutando un po' la situazione, essere decisamente differente rispetto all'introduzione di gravidanza, dove chiarisco subito l'obiettore di coscienza ha solo vantaggi a essere obiettore di coscienza, non ha alcuna penalizzazione, non soffre di alcun problema, anzi sostanzialmente è avvantaggiato ed è una situazione veramente drammatica, quella in Italia, unica direi drammatica, che dovrebbe essere risolta. Venendo invece alla legge che è in fase di discussione in questo momento, in queste ore, in verità io ho letto oggi appunto tutti le segni stampa, dicono che è stata introdotta ieri, in verità tutta la legge è pervasa da una forte, diciamo, connotazione del medico, cioè il medico ha in diversi articoli ha la possibilità di non attuare quanto il paziente chiede attraverso diversi passaggi, per cui non è una cosa di ieri, questo va detto. Ripeto, non credo che questo avrà un effetto così, anche numerico, così importante come l'altra situazione con l'obiezione di coscienza. Sì. Diciamo che ieri si è tentato, non è passato, ecco, un comma che liberava, non si sa per quale motivo avrebbe dovuto farlo, liberava gli istituti o gli ospedali privati, che sono principalmente tipo confessionali nel nostro paese, dalla possibilità di applicare questa legge. Questo ovviamente sarebbe stato poi, penso, per tutto anche incostituzionale. Sì. Riccio, molto brevemente, perché abbiamo pochi secondi, complessivamente l'impianto della legge la convince oppure no? Guardi, le lo dico molto fermamente, io sono stato anche abbastanza critico nei mesi passati, però se oggi mi guardo indietro e penso che 10 anni fa, in questi giorni, io venivo sottoposto a un iter giudiziario per aver interrotto la ventilazione per Giorgio Welby, e guardo questa legge e penso al decreto Calabrò, l'orribile proposta di legge Calabrò di qualche anno fa, io credo che sia un grosso passo avanti. Però attenzione, il passo avanti vero deve essere la rivoluzione culturale e medica di capire da parte del medico che il paziente ha un bene nelle sue mani, che la sua vita, che è un bene disponibile per il paziente stesso e non per il medico. La legge sicuramente è un passo avanti, favorirà questa comprensione, che è il vero punto, diciamo, per fare un riferimento un po' più, diciamo, ampio, un po' più approfondito, il vero passo avanti della rivoluzione culturale. Il medico deve desistere dal suo comportamento paternalistico e ippocratico. La ringrazio, grazie a Mario Riccio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e a quanto pare potremmo aver incamerato l'avvocato che, grazie alla mitica Laura Faggin, potremmo aver incamerato l'avvocato che ha seguito la causa dell'uomo che è riuscito ad ottenere il risarcimento dall'INAIL perché era troppo al cellulare e il tumore sarebbe stato generato da questo. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, in diretta su Radio 24 e anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. I nostri titoli: secondo il Tribunale di Ivrea l'uso eccessivo del cellulare provoca tumori, INAIL condannata a risarcire un lavoratore, il Senato con il voto segreto accetta le dimissioni di Augusto Minzolini, nel 2015 era stato condannato a 2 anni e l'Aula un mese fa aveva negato la decadenza. Biotestamento, riprende l'esame del testo alla Camera, il paziente potrà dire no alle cure e poi c'è la possibilità di obiezione di coscienza da parte dei medici. In Gran Bretagna i sondaggi danno i conservatori al doppio dei consensi contro i Labour, in Francia Macron avrebbe 3 punti di vantaggio sulla Le Pen, la borsa. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, Stefano Bertone, avvocato dello studio legale Ambrosio e Commodo, e con lei il nostro Giro dell'Italia ci porta ad Ivrea. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, che cosa succede? Beh, lo abbiamo raccontato nei nostri titoli, in questo momento ci stanno poi aprendo tutti i giornali online, questa sentenza del Tribunale di Ivrea che ha riconosciuto le ragioni di un vostro assistito, sentenza del Tribunale di Ivrea che decide che c'è un nesso tra l'uso scorretto del cellulare e lo sviluppo di un tumore al cervello. Nella fattispecie mi pare un tumore benigno, Bertone, no? Sì, esattamente. Sì, ci descrive brevemente la storia. Certo, innanzitutto partirei da una frase che lei ha detto, che ho già visto sui titoli dei giornali online, uso scorretto, mica tanto, uso intenso, uso massiccio del telefono, perché scorretto sembrerebbe che l'utilizzatore possa aver compiuto qualche errore, ma lui non lo può aver compiuto perché nessuno gli ha mai detto che il cellulare è pericoloso. Sì, questo è uno degli aspetti, poi è difficile fare un uso scorretto del cellulare, nel senso che ha una parte con la quale si ascolta, una parte con la quale si parla, insomma, comunque prego, insomma, la questione giuridica è questa. Il signor Romeo è un lavoratore di una grande azienda italiana, nel 2010 inizia a stare male, non sente più bene dall'orecchio, scopre di avere un tumore benigno al nervo acustico. Viene operato e insieme al tumore viene rimosso anche il nervo acustico, quindi perde l'udito dall'orecchio destro. Fa una richiesta all'INAIL di malattia professionale e l'INAIL gliela respinge dicendo che non c'è legame causale. Abbiamo impugnato questo diniego davanti al Tribunale di Ivrea e il dottor Fadda appunto pochi giorni fa ha emesso questa sentenza, di cui attendiamo ancora le motivazioni, che però certamente si basa su una consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale, che dice effettivamente l'uso intenso di cellulare 3-4 ore al giorno, come provato in causa, è causativo della malattia oncologica del signor Romeo. Questa è la vicenda detta in due parole. Sì, questa è la vicenda detta in breve. In sostanza viene riconosciuto al vostro assistito un vitalizio per questa invalidità, diciamo così. Esattamente, no? Quindi c'è il riconoscimento che sia una malattia professionale e che gli dà diritto ad una rendita mensile vitalizia. Bertone, immagino che il giudice si sia basato sulla perizia e ovviamente su una serie di documentazioni prodotte da vari istituti di ricerca, no? Esattamente, certamente, esattamente così. La consulenza tecnica d'ufficio, svolta dal dottor Crosignani, che è un epidemiologo milanese, riconosce che le agenzie internazionali, ad esempio la IARC, l'Istituto Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che fa parte dell'OMS, già dal 2011 riconosce le onde elettromagnetiche generate dai cellulari dai cordless come potenzialmente cancerogene. Mi scusi Bertone, giusto per dare un'idea, perché poi gli ascoltatori iniziano a chiedercelo, certo. No? Ma quanto usava il cellulare il vostro assistito? Il signor Romeo utilizzava il cellulare dalle 3 alle 4 ore al giorno. 3-4 ore al giorno? Non consecutive, ma diverse telefonate. Lui coordinava una squadra di lavoratori che lo chiamavano, una 15ina di persone, alcune volte al giorno per alcuni minuti. Quindi un utilizzo cumulativo di 3-4 ore al giorno per una 15ina d'anni, che ha portato ad un consumo di più di 1000 ore complessive di telefonino. Ed è questo proprio il valore soglia che viene individuato nello studio Interphone, cioè sopra le 1640 ore cumulative di uso di cellulare sono state visionate in persone che hanno il rinome delle associazioni positive con l'uso del cellulare. Sì. E non usava l'auricolare, no? non usava l'auricolare. All'inizio della sua esperienza lavorativa con i cellulari, egli non usava gli auricolari perché non erano proprio previsti, erano gli ETAX iniziali, e poi successivamente non veniva, diciamo, raccomandato o incentivato l'uso dell'auricolare. Allora, quindi questa è stata la modalità di utilizzo che abbiamo. La ringrazio, grazie Stefano Bertone, avvocato dello studio legale Ambrosio e Comodo, per essere stato con noi. Raccomandazione agli ascoltatori, usate l'auricolare. Prima di chiudere, una piccola storia che un po' ci ha fatto ridere e però un po' di dibattito lo crea. Che cosa succede? Succede che un ragazzo di 19 anni, e ci spostiamo a Genova dopo una serata allegra, probabilmente anche alcolica, non si tiene più, non gliela fa, e in un vicolo di Genova si cala i pantaloni e fa la pipì. Arrivano i carabinieri, gli danno una multa. Quando gli arriva a casa è una multa da 10.000 euro, 10.000 euro per una pipì in strada, poi ridotta, sanzione ridotta, perché se paghi come dire entro un certo tempo la sanzione è ridotta ad un terzo, quindi ne paga 3.333, non so se anche col virgola 33 periodico, non lo sappiamo, però siamo in linea con Italo Porcile, che è assessore al Comune di Genova, assessore all'ambiente del Comune di Genova. Buongiorno Porcile, benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora, non sarà un po' troppo 10.000 euro? Vabbè, se prendiamo la cifra massima legata a quella tipologia di sanzioni, sì, indubbiamente la cifra è eccessiva. Però fa notizia perché purtroppo per le limitate risorse a disposizione nelle attività di controllo e sanzione rarissimamente poi vengono combinate questo tipo di sanzioni, mentre i comportamenti che potrebbero essere sanzionabili di questo tipo sono purtroppo sempre più frequenti, molto frequenti, soprattutto in certe aree della città, purtroppo soprattutto da parte dei giovani. E quindi ogni tanto un messaggio che va oltre, come dire, il malcapitato di turno va dato. È vero anche, Porcile, che servono anche un po' più bagni pubblici nelle città, perché ogni volta, lo sappiamo tutti, lo sappiamo specie noi che abbiamo i bambini e che ci capita di girare e non sappiamo mai come fare, si entra nei bar, se si è particolarmente cortesi si compra un caffè, un pacchetto di gomme da masticare eccetera eccetera, poi si chiede dov'è il bagno. Si può risolvere questo problema? Ma sì, in certe aree della città soprattutto, dove c'è un'alta frequentazione anche di turisti, infatti siamo abituati a fare i paragoni con le città dove noi diventiamo turisti, e questo tipo di servizio va fornito. A Genova in parte c'è, non sempre sono locali, va detto, puliti e mantenuti come dovremmo, però l'impegno c'è sempre, e soprattutto in determinate aree conserviamo questo tipo di servizi. I vari locali hanno il dovere di come dire, dare ospitalità a tutti coloro che ne hanno bisogno, però ripeto, hanno il dovere, dice lei, cioè se me lo dica, perché io questo non lo sapevo, cioè se mi scappa entro in un bar e dico mi dica dove è il bagno. Credo di sì, credo, adesso bisognerebbe poi, però penso che sia abbastanza doveroso da parte di qualsiasi esercizio pubblico. E dopodiché vanno garantiti anche i classici vespasiani, i bagni pubblici tenuti come si deve. Però in questo momento anche la sanzione in controllo è importante, perché non brilliamo, ecco, dal punto di vista dell'educazione civica e della consapevolezza magari del patrimonio storico e culturale. Mi dica la verità, dal punto di vista, come dire, anche dell'immagine, del segnale che si dà, una multa così grossa alla fine vi ha fatto piacere? Una multa così grossa è un peccato che sia così grossa e che sia un povero ragazzo di 19 anni che diventa, come dire, il simbolo di qualche cosa, però più multe, un po' più diffuse, magari in misura minore, ma più frequenti sul territorio, che creano una diversa consapevolezza, una come dire, educazione civica nelle persone, quelle secondo me invece sono necessarie, soprattutto in certe aree delle città. Grazie per essere stato con noi, Italo Porcile, assessore all'ambiente di Genova. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.